Ecco, ma la situazione peggiore del 92 dal punto di vista delle opere, questo l'ho capito, ma anche in generale dei conti pubblici dello Stato, cioè della gestione e delle risorse, perché nel 92 l'Italia uscì dalla lira, uscì dallo SME, ci furono tre manovre monstre, Amato, Dini, Ciampi, che sono in io questo... non sono un No, economista, però era un grande manager già allora, Gamberale. non mi voglio, non mi voglio assumere ruoli che non sono miei. Vabbè. Di sicuro l'euro ci ha dato più stabilità, però ci ha imposto più rigore e quindi il rigore va perseguito. Allora il paese ha un grande debito ed ha bisogno di svilupparsi. E sono quasi due cose in contraddizione, perché un'azienda con debiti difficilmente ha le risorse, non può avere le risorse per svilupparsi. Quindi bisogna trovare la maniera per diminuire il debito e per creare la possibilità di svilupparsi. Io penso che una tassa sulla ricchezza, un'importante tassazione sulla ricchezza, non sarebbe male in questo momento, perché darebbe un colpo significativo all'arretramento del debito e creerebbe, solo con il risparmio degli interessi, una spinta da poter dare all'economia, sia sotto forma di risparmio fiscale che sotto forma di investimenti. Per quanto riguarda le infrastrutture, che sono sempre un volano per lo sviluppo, io penso che un importante fondo infrastrutture Greenfield e la semplificazione chiara dei processi autorizzativi possano essere una vera importante spinta al rilancio dell'economia.